America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da Milano. Mario Platero, sono per qualche giorno in Italia, ma continuerò a seguire da qui le cose americane. Beh, cominciamo dalla Grecia. L'America ha preso molto bene la notizia dell'accordo in Grecia, era un po' scontata, per questo forse i mercati, soprattutto quelli europei, stanno un po' realizzando profitti. Ma la cosa che mi ha colpito di più è il dibattito su liberalizzazioni, sulla necessità di cominciare a pensare alla crescita e su trovare modi per soprattutto incoraggiare i giovani nel mercato del lavoro. E dunque oggi voglio dedicare questa puntata a un'esperienza americana a riguardo. Lion Roar, il ruggito del leone, anzi leone ruggisci, la canzone della Columbia University. Columbia University, devo dirlo, mia alma mater, perché poi quando sono venuto a studiare in America ho studiato a Columbia University. Devo dire, non ho avuto la stessa esperienza di Carlo Passacantando, che anche lui ha studiato a Columbia University, ha fatto il college. È uno dei nostri esempi di solo andata, perché è arrivato per studiare ed è rimasto con un risvolto molto imprenditoriale, ma lasciamo che lo racconti lui, perché è con noi ai microfoni di America 24. Carlo Passacantando, buongiorno. Buongiorno. Do una brevissima descrizione. Dunque, Carlo, tu quanti anni hai? 24. E ti sei laureato a Columbia quando? L'anno scorso? Sì, nel 2010. E in questo momento tu stai gestendo, da quel che mi sembra di ricordare, tre aziende diverse, o comunque tre operazioni diverse. Cioè, ti sei lanciato a fare l'imprenditore. Esatto. Carlo, dici intanto qual è il tuo business, come hai cominciato? Allora, ho iniziato con una piccola società di lavanderia alla Columbia University, che faceva questo servizio dove veniva a prendere dalle stanze degli studenti nel dormitorio la biancheria sporca degli studenti e gliela riportava il giorno dopo. Questa società l'ho rilevata dai proprietari, che erano altri studenti della Columbia, durante il mio primo anno di università. Quanti clienti c'erano in questa piccola società che faceva lavanderia per gli studenti? 60. E quindi l'hai rilevata, e a quel punto? Abbiamo reinvestito profitti per 2 anni e alla fine avevamo 350 clienti, abbiamo aggiunto altri servizi come la pulizia delle stanze, poi dopo 2 anni abbiamo rilevato le operazioni di questa società che si chiama Dormaid, che era una società che offriva gli stessi servizi ma su scala molto più grande ed era presente in tutta America. E quindi avete fatto un'acquisizione a tutti gli effetti? Sì, sì. Ecco, quanto hai investito originariamente per acquistare questa società? $20,000 la prima società. 20.000 te e 20.000 il tuo socio? Il mio socio americano, esatto. E poi siete andati avanti? Dopo 9 mesi sono venuti i proprietari di questa società più grandi, che eravamo già in contatto con loro perché avevamo comprato la parte della Columbia della loro società. In effetti inizialmente loro sono venuti da noi cercando di comprare e noi ci siamo rifiutati. Comunque non gli andava più di gestire questa società che doveva essere ristrutturata, altri soldi devono essere investiti per rifare il sito internet, per rivedere la struttura di marketing che aveva in posto, e quindi siamo riusciti a rilevare questa società a un prezzo molto scontato, $150,000. E aveva un fatturato di quanto? 700,000. Dunque tu, Carlo, sei qui a studiare in un'università americana e sei riuscito a sfondare con questo tuo biglietto di solo andata nel mondo degli affari americano. Per carità, non stiamo parlando ovviamente di grandi multinazionali, però hai un business avviato. Dici cosa un ragazzo di 24 anni prova a lanciarsi nel mondo degli affari. Io ho sempre voluto lavorare con l'energia alternativa, quindi però io volevo fare business, quindi ho iniziato questa cosa come un piccolo progetto che poi è cresciuto e durante questo periodo, facendo contratti, cose, impari molto di come gestire una società. E alla fine gestire una società facendo acquisizione, una volta che hai un modello, che sai come si funziona, il prodotto non importa più, quindi imparare questo aspetto di gestione, di capire come funziona la struttura, questa è la cosa più importante. E poi da questo ho iniziato a cercare di lavorare con delle società di energia alternativa. Ah, quindi tu stai espandendo il tuo orizzonte, cos'altro stai facendo? Se arrivano altri progetti io sempre mi interesso, se trovo che vedo che è una buona opportunità divento parte di varie società. Per esempio, faccio un esempio. Questa è una società che ha inventato questo sistema per motore a combustione che usa il calore che viene perso nella marmitta, questo calore viene ritrasformato in energia che poi risparmia benzina al motore, quindi con questo sistema, cambiando la marmitta, risparmi il 20% della benzina, e per adesso questo sistema viene installato sui treni, visto che hanno dei motori molto più grandi e consumano molto più benzina. Questo è uno scienziato italiano che aveva inventato questo prodotto ed era arrivato a un punto dove voleva iniziare lo sviluppo a livello commerciale, e questa società era all'inizio con questo prototipo. Io ho portato i miei avvocati, il mio team economico, e abbiamo ristrutturato questa società e abbiamo iniziato a prepararla per commercializzazione. Quanto dovete raccogliere? Per questa società abbiamo dovuto raccogliere 10 milioni di dollari. Già li avete raccolti? Sì, e questi fondi sono divisi tra investitori privati e fondi federali. E c'è un progetto per commercializzare la marmitta, per esempio, sulle auto, quindi metterlo al consumo? Per adesso siamo limitati ai treni, perché per le auto serve produrre molto di più e i margini sono più bassi. Invece i motori dei treni, i treni sono molto grandi, usano molta benzina e sono anche diesel elettrici, quindi puoi immediatamente convertire l'energia e rimetterla nella spina. Lavanderie su base nazionale, partito da zero con 20.000 dollari, adesso c'hai un'azienda col tuo socio di 1.600 college in tutto il paese, 50.000 clienti, 10 milioni di dollari per un'azienda che fa convertitore di marmitte, quindi per efficienza energetica. Beh, cos'altro c'è a 24 anni nel tuo orizzonte? E adesso ho iniziato questo progetto, questo era più per degli amici che mi hanno chiesto il mio aiuto, da una società di retail di moda che è iniziato un anno fa. Gli serviva ristrutturare la società, dare un altro aspetto sempre economico, finanziario, per poter espandere le operazioni. Sono venuti da noi e chiedo di aiutare a ristrutturare la società e trovare capitale per espandere la società. Quindi tre attività imprenditoriali a 24 anni. Avresti potuto farlo in Italia? Mai, direi. Uno, perché non c'è i tempi per fare queste cose, sono molto più estesi in Italia. Per esempio, ho degli amici che cercano di fare delle società e ci vuole un sacco di tempo, perché in Italia, per esempio, per la prima società ci vogliono 144 giorni, quando in America lo fai in 24 ore. E poi non c'è uno spirito che crede nei giovani, che è un altro problema dell'Italia, che se sei giovane non sei considerato di avere potenziale per poter fare delle cose di alto livello. E quindi questa opportunità si trovano in America, dove a tutti non danno l'opportunità per fare questa cosa, specialmente abitando a New York, dove riesci a fare molte cose, dove conosci molte persone, le persone credono nei giovani, e quindi c'è potenziale, anche essendo giovane, di fare queste cose. Non è una cosa che esiste in Italia. E dunque, scusa, non per essere, come dire, retorici, ma tu senti di essere in mezzo a un tuo sogno americano? Beh, il mio sogno è per il mondo, per cercare di aiutare il mondo, però il posto dove si può realizzare questo sogno in America. Torneresti in Italia? Ci sono delle condizioni a cui tu torneresti in Italia oggi? È molto difficile. Siccome l'Italia è il paese più bello del mondo, però il problema è che, essendo giovane, voglio fare molte cose e le opportunità in Italia non ci stanno come ci stanno qua. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, o scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Vi ho detto, quando parliamo di sull'andata parliamo di sogni, e dunque degli Aerosmith, Dream On. Da Milano è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.